Parla un po'. Di che colore portiamo le maglie stasera? Egregio dottor Scotti, l'attività come descritta telefonicamente si configura come un'attività professionale soggetta a IVA con la liquida ordinaria del 20%.